Allora, buonasera, benvenute e benvenuti a tutti quanti. Il riporto di saluti dell'assessore Tomasini, che comunque ci raggiunge nel corso della serata. Questa sera presentiamo il libro di Andrea Vitali, Claus sub Sabione Sita, titolo in latino. E ci accompagna questa sera la dottoressa Armida Zaccaria, che è la nuova direttrice dell'Archivio di Stato di Bolzano, che è qui in via Diaz. Una persona che conosco da tanti anni, con la quale collaboriamo volentieri, e mi fa particolarmente piacere averla con noi questa sera nella presentazione di questo bel libro di Andrea Vitali. Cos'è piaciuto del libro di Andrea Vitali? Ecco, adesso tocca a lui. Intanto a me interessa sempre capire come una persona proveniente da un'altra regione arrivi in questo posto. E quindi come si trovi? Perché il tema fondamentale della nostra biblioteca, almeno un tema della nostra biblioteca, è capire come si arriva in Alto Adige e come si sperimenta questo territorio, se si nasce, insomma. Andrea Vitali è una testimonianza molto interessante di un amore che è scoppiato per Chiusa e che questo trasporto, insomma, l'ha spinto a scrivere addirittura un libro, direi, molto corposo, insomma, documenta Chiusa in tanti suoi aspetti, dal punto di vista storico, archeologico, etnografico, artistico, geologico, itinerari e così anche non solo di percorsi, di gite, suggerimenti, ma proprio anche enogastronomici. Quindi diciamo che c'è un profilo a 360 gradi. I destinatari quindi sono molteplici di questa lettura, ma quello che ci ha colpito era anche la parte proprio squisitamente di indagine, di storia, e il lavoro sui documenti, ed è per quello che la scelta di accompagnare questa presentazione è stata di coinvolgere l'Archivio di Stato, che appunto lavora su questi documenti e li conserva. Andrea Vitali viene da Roma e vive a Chiusa e, come ha dichiarato anche alla fine del suo libro, è un atto d'amore, una dichiarazione d'amore, esatto, nei confronti di questo territorio, che è tutto da indagare, da scoprire. La biblioteca solitamente accompagna queste presentazioni anche con dei suggerimenti di lettura, per cui noi abbiamo poi una varietà anche di letture da accompagnare, per approfondire alcuni aspetti, seguendo anche la bibliografia che viene segnalata. Ecco, cedo la parola ad Armida Zaccaria e vi auguro una piacevole serata. Grazie di essere intervenuti. Allora, sono stata invitata, come diceva la dottoressa, a partecipare a questa presentazione. L'ho fatto molto volentieri per un duplice motivo. Come diceva lei, questo libro vale veramente la pena di aver letto. È stato condotto con molta pazienza, con una mano leggera, attraverso tutta la storia di Chiusa, di Sabiona, poi riesce subito a cogliere il nesso molto stretto fra Chiusa, che è questa cittadina in valle, e la rocca sovrastante, appunto, dove c'era già dall'antichità una forte presenza, la prima religiosa e poi anche politica. E questo appunto senz'altro favorisce la lettura, la compagna, e come diceva prima la dottoressa, è anche una lettura molto piacevole, perché riesce a intervallare argomenti storici con queste aperture, queste finestre che ogni tanto fa sulle usanze locali, sulla cucina addirittura. Io l'ho trovato molto piacevole. E a parte questo, poi un altro secondo motivo che mi ha subito preso è il fatto che il libro verta sulla documentazione del Vescovado di Bolzano. E questa documentazione noi la conserviamo all'Archivio di Stato. La documentazione è antichissima, è il primo documento, ve l'ho proprio portato qui tanto per curiosità, è dell'845 ed è il documento con cui l'imperatore Lodovico Germanico conferisce l'immunità al vescovo di Bolzano. Al vescovo di Sabiona in quel momento, perché dopo spiegherò come per trovarlo transitato da Savona a poi a Pessano. E questo naturalmente mi ha coinvolto molto e già il titolo, come il titolo latino, che è un passo di un documento del 1027, dice lunga anche su tutta l'indagine che l'autore ha fatto proprio nei documenti e in una ricca bibliografia, perché ha approfondito molto l'aspetto bibliografico. Ho trovato questa bibliografia molto mirata e molto giusta. E quindi io vi parlo in brevissimo, prima di cedere la parola a lui, di questa situazione di Chiusa. Chiusa, questa cittadina, come vi dicevo, che compare nei primi documenti intorno al 1000, ma la presenza di Chiusa come borgo è già attestata da prima, senz'altro, e direttamente e strettamente connessa con la vita del vescovato di Pessano. La sede di questo vescovado era da prima a Saviona, questa rocca appunto sopra. Già nel 500 abbiamo testimonianze certe di questa presenza, 500 dopo Cristo, di questa presenza del vescovo, di un vescovo proprio a Saviona. E sotto chiaramente si stava formando un piccolo borgo, una piccola entità che poi si sarebbe ricollegata appunto con il vescovado. E da allora in poi, fino al 1800, Chiusa è sempre appartenuta praticamente al vescovado di Pessano. Perché poi il vescovado diventa contea, diventa entità territoriale notevole, e Chiusa sempre appartiene al vescovo e per sempre segna la parte meridionale, proprio il confine tra il vescovado di Pessanone e quello di Trento, proprio per tutto il Medioevo fino al 1800. Questo primo documento, come dicevo, un po' particolare, come vedete questa figura è molto, molto strana dell'epoca, il sigillo sotto è imperiale, come si vede, e dà al vescovo di Pessanone, l'imperatore concede al vescovo l'immunità. Cosa vuol dire? Lo sta togliendo gradatamente da quelli che sono i signori territoriali del territorio, praticamente toglie ai signori territoriali di quel momento il diritto di decidere su tasse e su giurisdizione del vescovado. Quindi gli dà un'ampia libertà, ma lo lega a sé. Quindi da questo momento in poi il vescovo risponde praticamente direttamente all'imperatore. E se mi dà l'immagine successiva, ecco, questi sono gli imperatori del periodo. Questo è un sigillo del 1111, Enrico V, che riconferma l'immunità al vescovo di Pressanone. Voi vedete, porta in mano i segni del potere. Queste sono le prime immagini praticamente che noi abbiamo, proprio nei sigilli, saltano questi sigilli di cera in questo periodo. Vedete che ha nelle mani i segni di potere, da una parte lo scettro e dall'altra il globo, proprio il mondo, lui domina il mondo. E un altro sigillo ci dà l'immagine invece di un vescovo del 1200 di Pressanone, eccolo là, anche lui in mano non porta segni di potere, ma il potere sulla Chiesa sì, in assoluto, cioè da una parte appunto il pastorale e dall'altra il sacro, come vedete. E ancora, con un'ultima immagine, perché non voglio perdere troppo tempo, questa è invece un sigillo del 300 di un cittadino di Chiusa, quando Chiusa compare ormai come città riconosciuta dal vescovo. E quindi vedete la differenza di immagine, questo è soltanto un rametto con due biande, ed era un cittadino di Chiusa che era dotato di sigillo, sigillava i suoi documenti così, con queste immagini però decisamente molto minori rispetto all'entità di quelle precedenti. Ecco, Chiusa, come vi dicevo, resta per sempre legata al potere vescovile, e poi ne parlerà ampiamente anche il nostro autore, fino al 1800. E dopo passerà da prima alla Baviera e poi direttamente agli Asburgo e seguirà il destino degli Asburgo. Però in questo lunghissimo arco di tempo, dal 500 al 1800, Chiusa la parte meridionale, la clausa proprio, no? Dove la valle chiude lì, è la parte meridionale del vescovado al confine col vescovado di Trento. E questo un po' la contraddistingue attraverso tutto questo arco di tempo. Non voglio togliere altro del tipo al nostro autore, perché se lo faccio disquisizioni storiche che annoiano, però ci tenevo a precisare appunto che questa mia empatia per il libro, proprio anche perché questa documentazione noi l'abbiamo nel nostro archivio, conserviamo questi documenti antichissimi, e quindi era bello farveli vedere. Grazie. Io ringrazio la dottoressa Zaccaria, perché non ci potrebbe essere presentazione migliore. Prego, assessore. Ecco, è arrivato l'assessore qui con noi, l'assessore Tomaldini. Buonasera, buonasera a tutti. La nostra sala è sempre gremita. Sì, infatti, è sempre piena. Ma buonasera a tutti, io vi saluto. Ci tenevo ad esserci in occasione della presentazione di questo libro di Andrea Vitali, che avevo incontrato proprio a Chiusa e mi aveva sottoposto questo libro da lui scritto con grande passione per il territorio e con una grande accurata ricerca anche storica, e quindi mi è sembrato interessante proporlo all'interno dei cicli di presentazione dei libri della Biblioteca Claudia Augusta, che sono sempre molto seguite, come dimostra anche questa sera, sempre molto apprezzate e sempre all'insegna di una maggiore conoscenza del territorio. Quindi mi sembrava importante anche valorizzare questo testo e farne l'occasione appunto di una discussione, di un incontro insieme. Quindi ringrazio ancora l'autore e gli lasciamo appunto la parola. Grazie. Io ringrazio ovviamente l'assessore Tomasini, la direzione della Claudia Augusta, la dottoressa Zaccaria, per questo interesse appunto nei confronti di questo testo, che nasce un po' come una scommessa a Chiusa, in occasione, 2 anni fa, in occasione del 700 anni di città chiusa, cioè di città, di dignità appunto cittadina per Clausen, per Chiusa. Nel riflettere, diciamo, sulle motivazioni per cui ho accettato di scrivere appunto questo testo, ho trovato ispirazione in 2 citazioni letterarie, una di un grandissimo scrittore italiano del XX secolo, Italo Calvino, dalle Città invisibili, dove scrive: il viaggiatore riconosce il poco che è suo scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà. E poi una citazione di uno scrittore tirolese degli inizi del Novecento, Paul Busson, Ein Deutscher auf Heimatsuche in Tirol, in tedesco, per chi lo conosce appunto, è detto che qui io mi trovavo in un altro mondo, un mondo nel quale veniva parlata una lingua particolare, dove si mangiava in un altro modo, dove si viveva in un altro modo, differentemente da ogni luogo là fuori. Ecco, appunto, questi due testi mi hanno, diciamo, li ho trovati aderenti a me. Ecco, io nell'accostarmi a questa materia mi sono sentito un po' un viaggiatore che in un tale libro può fissare soltanto il poco che è suo, cioè un'esperienza personale limitata di un luogo, di un popolo, di una lingua che uno va scoprendo, non gli sono mai appartenuti, non mi sono mai appartenuti. La direttrice poco fa ha ricordato che io vengo da Roma, vivo qui in Alto Adige da 15 anni, ma appunto prima di allora questa realtà non mi apparteneva e che comunque in qualche modo divengono parte di me dal momento che ho deciso di avvicinarli. E quindi l'esperienza di uno Anderssein, cioè dell'essere di qualcun altro, di un essere diverso, di un mondo a sé che appunto prima non mi apparteneva, non mi apparterà mai pienamente, ma di cui però posso apprezzare e testimoniare ciò che nel mio presente mi è dato di percepirne, sia gli aspetti affascinanti, la fascinazione, come anche nell'introduzione del libro scrivo, sia l'inquietante, in tedesco l'unheimlich, ciò che appunto non è familiare. Ecco, un po' sempre così in oscillazione tra il senso di familiarità, tra il bisogno, diciamo, di trovare una Heimat, una patria, e il senso dell'estraneità, appunto. Clausa sub Sabione Sita, come sapientemente la dottoressa Zaccaria ha ricordato, è tratto da questo documento di Corrado II il Salico del 1027. Subito nel titolo ho voluto dare l'idea appunto di ciò che era al centro del libro, di ciò che è al centro del libro. Si parla di Chiusa, ovviamente, però strettamente collegata, indissolubilmente legata sia nel paesaggio sia nella storia, appunto, a Sabiona. Entrambi, il sottotitolo recita Sabiona è chiusa nel cuore della Val di Sarco, appunto entrambe poste nel cuore geografico della Val di Sarco, entrambe poste nel cuore storico del Tirolo storico e anche nel cuore emozionale di chi scrive. Scrivo nella, scusate l'autocitazione, nella introduzione, che è un libro come dichiarazione appassionata di invaghimento per una città, quindi non mi limito solo a Chiusa in questo invaghimento, ma per un ambiente, vale a dire il Sud Tirolo, che mi hanno accolto, scrivo ancora, pur non senza spine e disincanti. E riflettevo come in ogni storia d'amore che si rispetti, l'abbaglio iniziale dell'innamoramento è sempre o spesso seguito anche dall'amarezza delle disillusioni e dalla però successiva accettazione della sfida dell'integrazione, quella che in un rapporto di coppia si chiamerebbe amore. Ecco qua, in principio fu il diploma imperiale di Corrado II il Salico, ecco, di questo vi parlava poco fa la dottoressa Zaccaria, e vedete bene come nel documento appunto che risale al 7 giugno del 1027, Corrado II conferma un po' tutte quelle immunità e quelle donazioni che i suoi predecessori avevano fatto ai vescovi di Sabbione e poi Bressanone, infeudando addirittura la chiesa brissinese nel 1027 appunto del comitatus, cioè della contea, del Norital e della comitia vallis eni superioris, cioè della media e alta valle dell'Inn, dopo averli sottratti appunto agli infedeli duchi bavari, bavaresi, i Guelfi. E il latino, facendo una velocissima scansione del testo, il latino viene detto appunto nel nome della Santa Individua Trinità, Corrado, per la clemenza di Dio, appunto, imperatore Augusto dei Romani, e parla ovviamente in plurale maiestatis, l'imperatore, mossi dalla richiesta del nostro fedele Hartvigus, vedete, vescovo di questa chiesa di Bressanone, di nostra propria volontà abbiamo trasmesso, tradidimus, alla stessa chiesa brissinense, eccetera, eccetera, la contea, comitatum condam velfoni commissum, la contea un tempo concessa a Guelfo, appunto, da dove? E da anche i confini geografici. Abeo Scilice termino qui tridentinum aprixinense dividit episcopatum, cioè dal confine che divide l'episcopato tridentino, come diceva prima la dottoressa Zaccaria, dal brissinense, quo usque longissime porrigitur in valle Egnana, fino alla valle dell'Inn praticamente. Ecco, e qui viene citata per la prima volta appunto nella storia dei documenti Chiusa. Cum clausa sub Sabione sita et omni usu iureque ed eum legaliter pertinente, appunto con la Chiusa posta sotto Sabiona e con ogni diritto di usufrutto ad essa legalmente connesso. Quindi qui è l'inizio di tutto. Corrado II. Chiusa nasce da principio, l'insediamento di Chiusa dopo il 1027 nasce come dogana dei principi vescovi, ricordava la dottoressa Zaccaria, ci troviamo ai confini fra appunto il nuovo Hochstift, il nuovo principato vescovile di Bressanone e la contea del Tirolo, precedentemente la contea di Bolzano, e questo luogo di confine viene subito dotato di una dogana, o comunque viene ristabilita la presenza di una dogana, perché addirittura ci sono storici che ritengono che la presenza di una dogana lì a Chiusa ci sia da sempre, quantomeno dall'epoca tardo imperiale, anche se non ci sono ritrovamenti archeologici che possano confermarlo. Quella che si vede appunto è lo Zollhaus, la casa della dogana di Chiusa. Il 19 aprile del 1028 Corrado conferma la precedente donazione alla chiesa di Sabbione a Bressanone, a cui esplicitamente, in maniera ancora più chiara, connette appunto la relativa stazione doganale con tutti i suoi proventi economici. Dice: vi dona ai vescovi clusa sitas in loco Sebona, la chiusa sita nel luogo di Sabbiona, cum teroneo et cum omni utilitate, appunto con la dogana e con ogni suo provento. Direttamente sottoposta al potere dei principi vescovi, la stazione di pedaggio nord-sud diventa ben presto la più redditizia di tutto il principato vescovile. Si dice che intorno al 1300 vi si raccogliesse ben il 20% delle imposte sui traffici di tutto il territorio. E risulta, tra l'altro, storicamente, in maniera documentata, la più antica dogana del Tirolo storico. Ruolo ecco, luogo appunto di fermata, qui ci si ferma, tra l'altro la chiave, lo stemma parlante di chiusa appunto, una chiave obliqua su campo rosso, una chiave argentea, dice proprio la funzione della città, dell'insediamento, la chiave che apre e chiude il passaggio. Ed era talmente importante questo passaggio che l'ufficiale della dogana, lo Zöllner, non solo eserceva le imposte, ma controllava addirittura che non avvenisse il contrabbando lungo che cosa? Lungo la via del Brennero. Aveva l'incarico di mantenere agibile la strada che oggi noi chiamiamo del Brennero, appunto tra Colma e Schrambach. Schrambach sarebbe San Pietro Mezzomonte nei pressi di Bressanone. E il funzionario veniva direttamente nominato dal vescovo. Nel 2008, vi dicevo, chiusa è stata appunto, a chiusa si è ricordato il 700° giubileo della sua dignità cittadina, appunto. Quando ci si è ricordati che il primo documento che parli di chiusa Stadt, come città, è un documento appunto del 1308, ovviamente non solenne, non è un documento principe vescovile che garantisca in maniera appunto ufficiale questa elevazione, questa dignità della città, ma è pensato un po' un documento economico, una compravendita, è un diploma con cui Johannes III von Schlackenwerth concede a un certo Ebelein von Pletz, chi riesce a leggere il carattere gotico riconoscerà nella prima riga questi nomi, no? Johannes Bischof Zerbrixen Verleiht Ebelein von Pletz, che cosa gli concede? Zwei Häuser und Hofstädte zu Zeklausen in der Stadt, ovviamente nella lingua Mittelhochdeutsch dell'epoca, no? medio-alto tedesco, concede che cosa? Il Marktrecht, cioè lo jus forense su queste case nella città di Chiusa, il possesso effettivo di immobili cittadini per, diciamo, persone che non risiedevano nella città. Ebelein von Pletz avrà versato quindi all'erario vescovile, nella persona del Burgravio di Sabbiona, una tassa, la quale gli conferiva il diritto di possesso di questi immobili senza dover versare ulteriori tasse di successione, di compravendita o di permuta dello stesso. Questo vuol dire jus forense. Ecco, nel 1308 Stadt, città, che vuol dire che grosso modo già nei decenni precedenti probabilmente aveva un po' questa funzione, anche se se è vero che nel 1277 altri documenti dell'epoca nominano gli abitanti di Chiusa già come cives e quindi come cittadini, ma per un luogo, per un insediamento che non aveva mura, che non avrà mura di difesa almeno fino agli inizi del 1400. Il famoso storico austriaco tirolese Heinz von Hy scrive: non c'era città tirolese senza mura. Ecco, nel caso di Chiusa c'è una eccezione, probabilmente proprio la sua posizione geografica e la sua importanza strategica avranno indotto i vescovi a concedere questa dignità o a lasciare che questa dignità, insomma, venisse da sé in qualche modo, per questo forum, per questa città allora mercantile. Nel 2008 Chiusa è anche insignita del titolo di borgo più bello dell'anno, appartiene dal 2002 ai borghi più belli d'Italia, tra l'altro proprio il nostro sindaco Artus Scheidle è stato tra i cofondatori dei borghi più belli d'Italia, quindi questo è un po' un ricordo, ecco, di questa funzione anche turistica, diciamo, di Chiusa. Ecco, Chiusa nei secoli è stata città di transito, detto un po' celiando, poco chiusa. E sempre citando Italo Calvino dalle città invisibili, la città per chi passa senza entrarci è una, e un'altra è per chi ne è preso e non ne esce. Una è la città in cui si arriva per la prima volta, un'altra quella che si lascia per non tornare. Cioè, le città non sono dei monoliti, ma appunto sono corpi in qualche modo in continuo processo di mutamento, di evoluzione, sia nel tempo sia nello spazio, per cui nel tempo assumono gli infiniti volti di chi le ha attraversate, di chi vi si è stabilito o anche ha deciso di abbandonarla, di abbandonarle. E quindi anche chiusa è stata luogo di passaggio, soprattutto nel Medioevo, innanzitutto per pellegrini. I pellegrini, i vagabondi del Signore, i viatores domini, che percorrevano nel Medioevo le vie dell'Europa, di un'Europa in formazione, mettendo in contatto tra loro popoli diversi, ecco, mentre camminavano, diciamo così, sulla strada spirituale verso il regno di Dio, lasciavano le proprie patrie terrene per attraversare ne tante altre e quindi portare e ricevere tante novità nei luoghi in cui passavano, contribuendo, mentre appunto cercavano un regno che non è di questo mondo, contribuivano in qualche modo alla creazione delle società occidentali moderne, del pensiero universalistico cristiano moderno. Per loro, appunto, tra il XII e il XIII secolo vengono edificati appunto gli xenodochia, gli ospizi per i pellegrini, per gli stranieri, ed uno ne viene edificato proprio dal principe vescovo Corrado di Rodengo intorno al 1208, appunto a nord di Chiusa, l'ospedale dei 12 apostoli. Ospedale dei 12 apostoli che non era soltanto rifugio per i pellegrini, ma anche ospizio, luogo di accoglienza per gli emarginati del tempo, quindi poveri e malati. Era la casa del vescovo dove i bisognosi erano i signori di riguardo. Chiusa è stata attraversata però anche dai cavalieri, che potevano essere i crociati che andavano in Terra Santa, i teutonici, al seguito di re, di imperatori. Erano i nuovi signori territoriali che, come dice Franco Gardini, vivevano tra la violenza e la pace, tra il sangue e Dio, tra la rapina e la protezione dei poveri. Erano appunto i nuovi nobili del Medioevo, riconosciamo le cui istituzioni, la cui cultura è stata uno dei principali motori del processo di civilizzazione europeo. Sono passati per Chiusa imperatori e re in transito da o verso Roma o diretti a domare le ribellioni dei comuni lombardi. Se ne contano almeno 66 di passaggi di re imperatori nel basso Medioevo tra andata e ritorno. I mercanti, dicevamo di Chiusa, che già all'inizio del 1200 è forum, e cioè città mercantile, e i mercanti erano un po' dal punto di vista sociale il contrappeso della cavalleria, un po' in decadenza, ribelle davanti ai signori territoriali nel tardo Medioevo, e per questo godevano un po' ovunque di privilegi amplissimi concessi dai principi e dalle città stesse, dove, come a Chiusa, trovavano spazi di protezione ed ospitalità per condurre i loro affari. Nelle città, come a Chiusa, divengono i nuovi protagonisti della società, della politica, tanto che Chiusa ottiene, a partire dal XV secolo, in varie occasioni, in vari documenti, e dal principe vescovo e dagli imperatori, diversi privilegi mercantili che portano nel corso del tempo all'istituzione di ben 11 mercati annuali, che sussistono ancora oggi, solo che oggi durano un giorno, nel Medioevo duravano una settimana intera. Gli stranieri, ecco qua, gli stranieri, come ad esempio i Bergknappen, i minatori della valle del Tin, dello Funderberg, della valle a sud, della valle fluviale a sud della città, provenienti questi minatori e da nord e da sud. A metà del 500 se ne contavano in città, intorno alla città, circa 3.000, escluse i familiari, escluse le donne e i bambini. Oppure i muratori lombardi del 500, molti dei quali erano di origine, appunto, dicevo, lombarda. Questa è una curiosità. I mercanti romanci, provenienti cioè dai paesi latini, erano detti Zofoia Sabaudi, e una di queste famiglie di Zofoia, di Sabaudi, gli Ienno, all'inizio del 1500 si stabiliscono in città e divengono in breve tempo non solo possessori di una delle osterie più importanti della città, l'osteria all'Orso Grigio oggi, Ampern, ma divengono anche gli imprenditori minerari di Chiusa tra il 500 e il 600. Nel 1630 dalla loro famiglia nasce Mattias Ienno, appunto il decano di Chiusa, che oltre che essere appunto munifico direttore delle miniere di Chiusa, sarà anche il ricostruttore di Sabbiona, sarà colui cioè che farà venire a Sabbiona le monache benedettine del Nürnberg di Salisburgo, fondando appunto sulla Rupe il monastero attuale. gli eserciti sia imperiali sia stranieri. Ci sono studiosi che parlano di chiusa tra il XV e il XIX secolo come Truppenstation, come stazione di truppe imperiali, reali, nel periodo appunto delle guerre contro Venezia e poi successivamente ancora nel periodo della guerra dei Trent'anni, nel 1600, quando passeranno numerose truppe provenienti dall'Italia che vanno verso la Germania, e poi l'invasione francese nel 1797, quella francese di nuovo nel 1805, quella franco-bavarese nel 1809. Gli eretici, ossia i riformati. Ci sono studiosi che ricordano che proprio per la sua posizione sulla via del Brennero tra i due principati vescovili, Chiusa era un vero e proprio snodo di passaggio, una terra di missione per le dottrine riformate agli inizi del 1500. Basti ricordare che il grande riformatore, chiamiamolo rivoluzionario con una visione un po' successiva della storia, Michael Geismayr, era appunto doganiere di Chiusa, e quello che veniamo rappresentato invece è Jakob Hutter, originario della Valpusteria, ma appunto catturato con i suoi seguaci, gli anabattisti, che poi da lui prenderanno il nome di Hutteriti, proprio a Chiusa il 1° dicembre 1535. Grandi uomini d'affari, gli imprenditori minerari, i Gewerken, questo che vediamo rappresentato nel XVI secolo è Jakob Fugger, che stabilisce a Chiusa nel 1522 una delle filiali del suo impero economico. Regine come Marianna di Pfalz-Neuburg, sposa di Carlo II di Spagna, che tra il 1699 e il 1701 dota Chiusa del convento dei Cappuccini e del suo famoso tesoro di Loreto, che ancora oggi si ammira nel Museo Civico, per, diciamo così, amicizia nei confronti del suo padre spirituale, il padre cappuccino Gabriel Pontifesa, che era appunto un chiusano. E di frati cappuccini e di rivoluzionari Chiusa ne ha conosciuti altri, come Pater Rothbart, fra Barbarossa, meglio conosciuto come Pater Joachim Aspinger, che nel 1809, dopo essere stato cacciato insieme agli altri cappuccini dal convento di Silandro a causa dei soldati franco-bavaresi, si rifugia più volte nel convento di Chiusa e da lì più volte appunto fa le sue sortite insieme agli Schützen della Val di Sarco sul Berg Giesel a Innsbruck contro i franco-bavaresi. Si dice che il guardiano del convento a un certo punto gli abbia detto: caro padre, tu bisogna che ti dai una calmata e ritorni in convento. La risposta sarebbe stata sbattersi la porta dietro e lasciare appunto il convento. Questo è Pater Joachim Aspinger, anche questo. Cittadina degli artisti, a partire dalla fine del 1800, viene definita la Künstlerstädtchen, la cittadina degli artisti, ma in verità tutti ci tengono a ricordare che Albrecht Dürer, nel suo ritorno dal primo viaggio in Italia tra il 1494 e il 1495, soffermandosi appunto proprio nella media valle dell'Isarco, avrebbe fatto uno schizzo della cittadina di Chiusa, che poi avrebbe inserito in questa famosa incisione del 1501, la Nemesi o la Grande Fortuna, ai piedi, sotto le nuvole schiacciate, quasi piegate dal peso incombente di questa fortuna terribile, c'è appunto ci sarebbe la cittadina, si riconoscerebbe la cittadina di Chiusa. Nel 600 anche Chiusa diventa, diciamo, sede di qualche bottega di qualche artista. Non era così grande, quindi non molti artisti venivano a stabilirsi a Chiusa, preferivano Bressanone, ma questo quadro votivo conservato appunto al Museo Civico di Chiusa ci ricorda che forse la scuola di Stefan Kessler, il più grande artista del primo barocco bressinese, avrebbe operato anche a Chiusa, e sotto la bella dolce immagine della Madonna dell'Aiuto si vede proprio la città come appariva allora. Frühling in Klausen si intitola questo quadro della fine dell'Ottocento, Primavera a Chiusa, è una delle opere di Alexander Köster, uno di questi grandi artisti o comunque significativi artisti tedeschi della Germania, che nella seconda metà dell'Ottocento, un po' sulla scorta della fascinazione medievale dell'antica città tirolese, un po' attirati anche dalla scoperta presunta della località nativa di Walter von der Vogelweide, del lirico tedesco, del massimo lirico tedesco medievale, e affluirono, diciamo così, in frotte, anche diciamo accompagnati dall'apertura della nuova ferrovia del Brennero nel 1867, affluirono in frotte nella città, la riempirono appunto con i loro circoli artistici, letterari e ovviamente anche gaudenti. E città d'arte ancora oggi per alcuni. Io vorrei ricordare che nella nostra cittadina ancora oggi vivono grandi artisti tirolesi e anche di fama internazionale, come ad esempio uno Heinrich Schwendt, che è bolzanino ma che ha deciso probabilmente di passare i suoi ultimi anni proprio a Chiusa, e altri personaggi come la ritrattista Sonia Hofer e il suo compagno Federico Cantoni, Leslie De Vries, una figura veramente interessante, veramente cosmopolita, nato in Paraguay da padre anglo-olandese e da madre italiana. Nel libro ci sono anche gli aspetti, diciamo, più turistici, il turismo ed il folklore locale, il Törkelen ad esempio, cioè questa usanza tipicamente autunnale della Val di Sarco che conoscete bene tutti, che è diventata una vera e propria manifestazione cittadina negli ultimi giorni di settembre, inizi di ottobre. Quindi i colori del posto, i costumi, ad esempio, la tradizione, le tradizioni che si trovano nella prima parte del libro, i sapori di questo mondo che costituiscono insieme ai beni paesaggistico-culturali, scrive Carlo Ravanello, la proprietà intellettuale di un territorio. Quindi anche la sega, le castagne, così come le espressioni del folklore locale, la reginetta del Törkelen, anche questo costituiscono appunto il genius loci di Chiusa. Ecco, Sabbiona, vi dicevo, è nella prima parte del libro, quindi da un punto di vista, se vogliamo, di importanza, viene messa in rilievo proprio perché anche storicamente viene prima della città di Chiusa, ma anche perché a lei ho voluto dare proprio il significato di quello che è, cioè la fonte e il cuore della diocesi brissinese, il cuore pulsante della storia diocesana e la scaturigine per la terra tra i monti dell'acqua viva del messaggio cristiano. E prima ricordava la dottoressa Zaccaria Ingenuino, il vescovo che si vede sulla destra, il primo vescovo documentato insieme a Maternino appunto nel VI secolo, e sulla sinistra invece si vede Albuino, colui che avrebbe trasferito definitivamente la sede vescovile da Sabbiona a Bressanone. Ecco Sabbiona come si presenta oggi, cerco di andare più velocemente verso la fine. La saggezza della storia la si incontra oltrepassando la soglia di questi luoghi antichi che parlano, almeno a me hanno parlato, parlano del sorgere, perdonatemi, passatemi questa espressione, di un Tirolo preeroico, di un Tirolo sovraetnico, fatto di incontri, come anche di scontri tra popoli, di stratificazioni linguistico-culturali, di compromessi politici, tutti tenuti insieme però da un'idea di cristianità che qui ha identificato l'autorità del pastore spirituale con quella del principe territoriale. E allora non si può non ricordare il fonte battesimale del V secolo, unico un po' in tutto l'arco alpino, che si può osservare ancora oggi nella sacrestia della Chiesa della Madonna. E poi velocemente la presenza di Roma, l'organizzazione romana nelle province appunto del Limes, la penetrazione culturale latina tra le popolazioni retiche, di cui appunto la Chiesa, almeno con Ingenuino, Episcopus Secunde Rezie, Vescovo della Rezia Seconda, è rappresentante ancora fino al VI secolo, e poi le penetrazioni più o meno violente dei popoli germanici, sempre verso la seconda metà del VI secolo, prima i Longobardi, poi i Franchi e poi i Bavari, che fino al IX secolo cambiano il volto del territorio. Per cui già nel 798 Sabbiona, per volontà di Carlo re dei Franchi, ancora non imperatore, diventa da diocesi latina diocesi bavara, viene cioè staccata dalla patriarchia di Aquileia è sottoposta alla metropolia della nuova, del nuovo arcivescovado bavaro di Salisburgo. Cosa ha fatto Carlo Re dei Franchi? Non ha fatto altro che registrare ciò che ormai era a cui si era approdato, insomma, un vero e proprio passaggio appunto culturale di questa terra. Nel 901 Ludovico il Fanciullo, ultimo dei re carolingi orientali, dona il Maso Prixna a Zaccaria, vescovo di Sabbione, e da lì, noi sappiamo bene, inizia anche la storia di Bressanone. Alboino, come dicevo, alla fine del Novecento trasferisce definitivamente la sede a Bressanone, per cui ormai nel Medioevo, nel basso Medioevo, la fortezza, l'ex sede episcopale di Sabbione rimane soltanto come castello vescovile dei principi vescovi di Bressanone, a guardia del confine meridionale del principato vescovile. Quella che fu la cattedrale dei vescovi di Sabbione dopo il VI-VII secolo diventa nel corso del basso Medioevo il santuario della Santa Croce, che come la si può osservare ancora oggi. Nel 1685, vi dicevo, per volontà di Mattia Siena, le Benedettine, le figlie della regola di San Benedetto e di Santa Scolastica, salgono sul monte e vi fondano il monastero attuale, ridanno vita alla Rupe. E tra le Benedettine successive mi preme ricordare, di fare anch'io un ricordo oferiano, diciamo così, ma di dare un po' un altro volto all'epopea antinapoleonica, un volto femminile, direi più soave, quello di Suor Magdalena Tolt, che durante l'occupazione bavarese del 1809, quando il monastero stesso venne appunto espropriato e le monache vennero cacciate, ad alcune fu concesso di rimanere, lei che era la cuoca cuciniera era una di queste, ma narra appunto la tradizione, che è quasi diventata mito, quasi diventata leggenda. Magdalena Tolt si sarebbe inserita una sera nella guardiola dei soldati, si sarebbe vestita da soldato e poi durante la notte avrebbe attraversato le postazioni nemiche del Renon per scendere al mattino presto a Bolzano, dove l'intenzione era quella di recarsi dal maresciallo francese Dillier, Balaguer Dillier, a chiedere aiuto, a chiedere la soppressione appunto di questa occupazione indegna del suo monastero. E qui viene rappresentata in questo quadro molto significativo davanti a Maria in Mos, la Madonna della Palude, della parrocchia di Bolzano, e si vede il fumettino che esce, vedete, dalla suora vestita appunto in abiti militari, sembra quasi un San Michele Arcangelo, e a Zeige dice al Smut, mostrati madre. Si dice che poi, dopo questa preghiera, la sorella sarebbe andata davanti al generale, il generale avrebbe avuto non solo pietà di questa suora, ma addirittura tale ammirazione da concedere che il monastero di Sabbione venisse liberato dalla presenza delle soldataglie. E oggi ancora centro di spiritualità, perché anche se le suore sono suore di clausura, le monache di Sabbione, qui vediamo l'abbadessa, con alcuni ospiti, ancora oggi appunto a Sabbione, molto discretamente, molto silenziosamente, si ospita. Ecco, siamo alla conclusione. Mi sono permesso di concludere con il significato finale di questa parte dedicata a Sabbione, la citazione del programma, diciamo così, del nostro attuale vescovo, del vescovo Golza, che cita la lettera agli Efesini 2:14, di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva. Ecco, questa è un po' la funzione che mi sembra ancora oggi, se mi permettete questo discorso antistorico, perché adesso qui non parlo più da storico dilettante, diciamo così, ma da idealista, mi permetto di leggere per concludere la parte che dedico nel libro a questo aspetto. Monsignor Wilhelm Egger, recentemente scomparso, negli anni del suo episcopato aveva emblematicamente fatto proprio il messaggio evangelico di accoglienza ed unità con il motto pastorale Syn, parola greca che appunto sta per insieme. Modello ed ispirazione egli li aveva tratti senza dubbio dall'indimenticabile Monsignor Josef Gagita, suo predecessore, primo vescovo della neo istituita diocesi di Bolzano-Bressanone nel 964, il quale ininterrottamente cercò di perseguire la via della pace e del giusto mezzo tra i gruppi linguistici della sua terra. L'attuale guida della diocesi, il vescovo Karl Golzer, ha ritenuto suo compito porsi sulla scia dei primi due pastori, parole sue, per contribuire all'edificazione della Chiesa fondata sugli Apostoli e contribuirvi insieme. Come ha ribadito egli stesso nel giorno del suo primo discorso da vescovo eletto, il 5 dicembre 2008, intendo con questo insieme tutti i gruppi linguistici presenti sul nostro territorio, compresi anche coloro che negli ultimi anni vi sono immigrati ed ora vogliono convivere in pace con noi. Ecco, sulla scorta dell'esperienza storica e delle prospettive future della Chiesa sudtirolese, io auspico, Sabbiona torni perciò ad essere fonte zampillante di comunione ecclesiale e sociale, un segno visibile nel tempo odierno dello spirito di colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva. Grazie per l'attenzione. Beh, questo...